24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. E la maggioranza della capigruppo alla fine ha approvato quello che la nostra proposta, cioè che l'orario di lavoro si dilatasse il massimo possibile. E pertanto da lunedì 28 incominceremo a lavorare dalla mattina alle 9, termineremo alle ore 24 e lavoreremo anche nei fine settimana. Ore 9:24, si lavora dal lunedì alla domenica. E poi si riprende lunedì alle 9 fino alle 24, dal lunedì alla domenica. Così il capogruppo del PD Zanda, senatore Zanda, ha dettato i nuovi ritmi del Senato. C'è da approvare la riforma del Senato. Renzi dice sì sì, facciano pure, tanto io non vado in ferie. Vediamo chi si stanca prima. Cari italiani, alle 6:31 minuti, io in ferie ci vado e ve lo preannuncio, porterò con me anche Paola Saluzzi. Paola, buongiorno, tutti in ferie. Buongiorno Alessandro, anche io vado in ferie, sai? Appunto. Andiamo in ferie tutti quanti e invece loro no. A lavorare. Mi sembra una cosa molto a lavorare, 9:24. Mentre invece Luca Dini in ferie c'è già andato. Direttore, buongiorno. Come va? Tutto bene, io rimango qui con loro invece. 9:24. La domenica, lavorano la domenica, la senatrice Bignami ha detto no, è una vergogna, è una discriminazione contro i cattolici che vanno a messa. Si va a messa e poi si torna a lavorare. Esatto, assentati mezz'ora. Sono delle ottime messe alle 7 di mattina. Bravo, 9:24 è domenica, alle 7 la messa per chi vuole e poi alle 9 al Senato. Importante a lavorare, a fare i bravi la domenica, una messa alle 7 e via. Ma c'è chi è andato oltre e sull'onda della senatrice Bignami ha detto e il sabato è la festa sacra per gli ebrei e il venerdì per i musulmani e vabbè, allora lavoriamo dal lunedì al mercoledì ed è tutto a posto. No, va bene, questo è 24 mattino. Saluto Giorgio De Luca in redazione insieme a Carmelo Lauricella in regia, -2 Albe e poi voliamo via come delle farfalle, via delle libellule. E allora dai, apriamo il Parlamento. Ale, apriamo il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè volentieri lo offre Nicole Minetti, che questa volta Luca Dini me lo confermi, è veramente incinta, non è incinta un po'. No. Io non lo so, guarda. Ci sono indiscrezioni, dai. Stavolta libero, diceva. Non sei il biografo della Minetti, ma com'è possibile? Vabbè, insomma, non è che una gravidanza si possa nascondere poi a lungo. Comunque, pare che sia incinta. Ma nel suo caso, diciamo che fra tante curve gonfiate più o meno, per un po' si nasconde, dai. Oggi si è svegliato. Luca Dini è tornato dalle vacanze, urticante, no? Urticante, va bene. Però io vorrei parlare di una persona che ho in mente, cara Paola Saluzzi, vediamo se la telepatia ancora una persona che in questo momento mi fa un po' prudere le mani, che vedi in una foto con una bella camicia bianca, con un bel viso abbronzato, in mezzo a due belle donne che lo sbaciucchiano, non può essere Borghezio. No, non è Borghezio. Però ci sarebbero delle donne eroiche, sì. No, ecco lui, comandante. O comandante. Ora io non sono tutto fuorché moralista, per carità. Posso dirlo? Schifo, l'ho detto. Che schifo. Hashtag che schifo. Che schifo. Vabbè, io perché. Ah, tra l'altro tu, Luca Dini, eri da quelle parti, per caso a Ischia l'hai incrociato? O comandante? No, non l'ho incrociato, però sono d'accordo con Paola e. Ma non per lui, per chi l'ha invitato. Esatto. Cioè, esatto, stiamo parlando di Schettino, il comandante Schettino che se ne va per feste, e non c'è nulla di male andare a una festa, per carità, non adesso paio il bigottone, ma io dico, ma poi sapete cosa ha detto a questa festa? Spero proprio che la Concordia non affondi ora, dopo tutto quello che ho fatto per salvarla, ma tutto. Ma io dico, ma... Paola Saluzzi, siccome non ho le parole, dai, fai tu. No, allora Alessandro, se tu vuoi mandarmi dritta in galera, va bene. No, nel senso, allora, come sempre la saggezza di Lucadini soccorre, e non solo perché sia il direttore, per la persona che è. In effetti l'errore non sta tanto in chi si presenta, ma in chi evidentemente invita. Allora, non stiamo parlando della lettera scarlatta appletta ad un uomo, nel senso additato per sempre, però un bel tacer non fu mai scritto, proprio quest'uomo non la impara come regola, dopo non la impara, e anche un bel veder non fu mai scritto, insomma, nel senso oggi parte dalla Concordia che ieri, lo ricordo, ha issato la bandiera P, che vuol dire si va tutti a bordo, e mi ha fatto grande pena vedere quel gigante, come tutte le navi che vanno a morire, per l'ultima volta issare quella bandiera. C'è stato un popolo eroico di persone che hanno in maniera scientifica ragionato su come riportarla a galla. Sì. Le responsabilità sono tante, ma di fatto un comandante che arriva a terra a calzini asciutti quando muoiono 33 persone, 32 più una, e la nave è spiaggiata perché Dio l'ha portata, e se non credi in Dio, credi nella sorte, l'ha portata a spiaggiarsi sugli scogli, stai zitto. No, ma infatti... Stai zitto e non farti vedere, perché tu sei sceso, sei caduto nella scialuppa. Caspita, che fortuna. No, ma infatti, ma poi... Che, ma alcune, che botta di fortuna, alcune, il ragazzo che è morto, il ragazzo... Il, ma no, ragazzo, ma certo, ma guarda, musica, io vedere... Anni, ma no, ma vedere... Non è caduto in una scialuppa. Sì, ma infatti, ma vedere queste foto, ma per carità, le dichiarazioni poi... No, non ho acceso la TV e non guardo il recupero, perché avrei dovuto farlo? Questa è un'altra perla del capitano, Schettino. Elena, il problema è Sant'Elena, che non si frequenta troppo di questi tempi. Ovviamente parole strappate tra un, non so, un mojito e uno spritz, no? A Ischia, quando sì, ma la cosa dovrebbe fare, cioè, invitare una persona così per avere quel po' di attenzione, esatto, che purtroppo gli stiamo dando. Cioè, sono come quelle persone che scrivono le lettere in carcere ai serial killer e poi li vogliono sposare, cioè. Sì. Se lo meritano, però. Sì, no, certo, diciamo, d'altronde è così, ma c'è sempre quell'attimo quando c'è una tragedia, una vicenda anche di cronaca, per dire tutto il mondo è paese. Ieri leggevo che Dominique Strauss-Kahn, ve lo ricordate, va in giro per il mondo a botta di 150.000 euro per la presenza, però per fare delle, per carità, era anche un economista, ne sapeva di economia, ma adesso, voglio dire, la sua notorietà qual era adesso? Qual è? È quella della vicenda che ha coinvolto lì a New York, in America, no? Che dire? Viva Schettino, viva. Sì, fatto gravissimo, Dominique Strauss-Kahn, figurati, voglio dire, parlo da donna, fatto gravissimo. Ma, tra parentesi, non ha ammazzato nessuno, o meglio, nessuno è morto a causa di un comportamento tenuto improbabile. Ok? Io non sto accusando, nessuno dice sono morti per colpa di, però togliamo ci sarà un processo. E che caspita? Quantomeno sono morti, ma voglio dire, vieni invitato alle feste, peraltro con l'unico scopo, come dice Lucadini, di chi lo invita alle feste, di avere notorietà e finire sul giornale. Ma ci abbiamo Schettino, guest star, ma chi se ne fotte? Ma voglio dire, questo è mentre vedo lì, per esempio, ecco, su Sky. È un po' come far sfilare, quando facevano sfilare la Minetti, Sì, però anche lì Nicole Minetti cosa ha fatto, esatto. C'è il buon gusto. Vabbè, vedo intanto su Sky proprio lì il relitto della Concordia e lo passano, visto che oggi parte. Va bene, tra l'altro, dai. Parliamo di una cosa, scusa, e finisco subito, l'importante. Applausi tutti in piedi per tutto quel gruppo che è riuscito a fare questo miracolo. Applausi tutti in piedi, orgoglio massimo nei confronti di uomini che sono riusciti a fare, uomini e donne, che sono riusciti a compiere questo miracolo, cioè riportare in piedi quel quel mostro, bellissima nave, ma quel mostro, e portarlo via. Allora, ecco, quella è la gente per, alla quale dobbiamo dedicare attenzione. E oggi l'ultimo viaggio. Va bene, intanto vi appassiona questa cosa delle riforme? Siete pronti? Adesso io ho fatto, adesso, a parte gli scherzi, ma davvero c'è una rivolta in Parlamento, per la verità, al Senato, soprattutto per questa storia della domenica. Devono lavorare tutta la... Da dove ti gusterai, Paola Saluzzi, senza volere violare la tua privacy? Tanto sei capito che in vacanza con me non ci vieni. Ma, senza voler violare la tua privacy, da dove ti gusterai queste belle lunghe domeniche di seduta al Senato, che ne so, il 12 di agosto? Allora, spero dal mare di Sorrento. Ah, ecco lì, torna Sorrento. Lo spero vivamente, quindi torna Sorrento, e trovo, come dire, importante che non si vada in vacanza fin tanto che non si è finito un lavoro, e quindi stanno dando prova di che si fa così dappertutto, a cominciare dalla politica. Va bene, intanto sentite Renzi che sulle riforme dice, insomma, ce l'ha con chi vuole l'ostruzione. Mamma mia, diventa anche questo, ogni giorno c'è la battaglia, i frenatori e noi, e i sassi sui binari e noi, e resistono e noi, e questo è il leitmotiv. Le immagini alle quali stiamo assistendo in queste ore, di qualcuno che vuole bloccare, fermare, ostruire il cammino delle riforme in Italia, sono le immagini di chi pensa che si possa continuare ad andare avanti così com'è. Noi abbiamo preso il 41% per poter cambiare finalmente l'Italia, e per cambiare l'Italia occorre fare le riforme, e le faremo. A questa sicumera, Luca, già l'altra volta te l'ho chiesto, ti piace questa sicurezza di Renzi, oppure, ma comincia a diventare un balletto un po' noioso questa storia, noi vogliamo e quelli vogliono frenare, che dici? Però guarda, allora non conta tanto se piace a me, conta se piace al 41% che ha votato. Io sospetto di sì, nel senso che quel discorso lì, abbiamo preso questi voti per fare delle cose, è un discorso che può essere demagogia, ma funziona. No, ma io tra l'altro devo dire una cosa, non è che ho seguito tutto il dibattito della riforma del Senato, non so se tu, Paolo, l'hai seguito meglio di me, ma adesso dire che c'è autoritarismo, ma io adesso, non è che dico una cosa a favore, dopo mi dicono sei renziano, ma chi se ne frega, non ho votato Renzi, no, manco ho votato l'ultima volta, ma comunque, questo è un mea culpa. No, quello che io preferisco è, ma è lì da 2000 anni. Sì, esatto, ma cioè, che vuol dire autoritarismo? Ma sarà un'altra cosa l'autoritarismo? Sta discutendo da mesi, poi questa riforma alcuni farà schifo, alcuni piacerà, voterà la maggioranza, ma dov'è l'autoritarismo? Può essere una bella riforma o brutta riforma, scatenare Matteotti, il fascismo, le dittature, assurdità. Non vedo, quantomeno sono così miope da non vedere tutto questo pericolo. No, ma infatti, ci sono delle dichiarazioni. Ieri, per esempio, lo so, la vicenda, un'altra che mi è venuta in mente, dell'onorevole Galan, per cui è stato votato l'arresto. L'onorevole Bergamini ha detto non esiste tribunale in Italia dove si mette in galera senza ascoltare la persona che si deve difendere. Ma la Camera non è un tribunale, non hanno mica deciso che Galan è colpevole di niente, bisognava solo vedere se c'era persecuzione nella richiesta d'arresto, e hanno deciso di no, punto. Non è che invece è così, Luca, si distorcono sempre le cose per cercare di portarle dalla propria parte, non se ne esce. Se non sbaglio, Saviano ieri ha scritto che in Italia esistono i giustizialisti e i garantisti, che in realtà sono giustizialisti con una maglietta di un altro colore, che è proprio così, cioè, che garantismo è questo? Cioè, a orologeria, ecco. Vogliamo sentirlo, Galan, tra l'altro, è stato portato via in sedia a rotelle perché c'è una gamba rotta, e tra l'altro si è arrabbiato molto anche con i medici, perché la mattina del giorno in cui si votava il suo arresto è stato dimesso dall'ospedale. Lui dice, ma come? Mi hanno tradito anche certo. Loro. Sentilo qua. Cassato sono, se vuoi raccontarlo, ma tanto. Non sei, all'inizio l'audio, ma sono incazzato, ma tanto, raccontalo sul tuo giornale, credo che era Il Mattino di Padova. È arrabbiato, Paola, va bene. No, per dimetterlo a quel punto, però scusate, potevano dimetterlo il giorno prima per farlo andare a Roma, no? Nel e chi senso, lo sa? Non difendersi, dici? Sì, cioè ti dimetto un'ora dopo il voto dell'aula, ma ti dimetto 24 ore prima del voto dell'aula, ci arriverai in ambulanza, ci arriverai, per carità, con tutti i dolori del mondo, ma avevi chiesto di poter essere presente e io medico devo dimettere. È chiaro. Insomma, intanto dai, facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo con la segreteria telefonica, ecco la nostra Paola Saluzzi. Il contadino di Terni non credo che ci sia nella segreteria telefonica, ma rispolveriamo qualcosa nel frattempo per te. 24 mattino. Buongiorno signor Milan, io sono Bastiano da Foggia, le auguro buone vacanze e soprattutto si diverta. Ascoltami, mi oppino le bai che continuate a dire cazzate sempre alla radio, ma io non lo so. Il ragazzo Renzi, fra i gufi del suo partito, i porconi tipo Minzolini, dovrebbe prendere un mitra. No, ma tanto prima o poi noi voteremo e ci ricorderemo dei sassi che stanno mettendo. Senti Milan, mi hai già censurato una volta, adesso devi sentire, vai in ferie tranquillo perché Meazza è meglio di te. Milan, io ti voglio molto bene, ti ascolto sempre, ma questa Italia dove vuole andare? Ciao caro carino, ti chiedo, ma come può essere che il nostro lieve presidente del Consiglio in Africa non abbia parlato di Gaza, dell'aereo abbattuto in Ucraina, dell'immigrazione, ma solo dei sassolini da togliere dai binari della riforma del Senato poi? Ma quanto provincialismo, ma chi se ne frega? La chiamo per dirle, per piacere, tolga di mezzo Benigni la mattina, al posto suo, con le stesse parole, mettiamoci la signora Paola Saluzzi, che almeno ci farebbe fare una bella giornata, insomma, dall'inizio si comincerebbe, insomma, allegramente, ma questo Benigni qua le palle ce l'ha fatte fare quando il globo terrestre, la vogliamo smettere o no? Quanto è bello, spira tanto sentimento. Paola. Vabbè, non ho parole. Ti abbiamo messo, torna sul rientro intanto, no? Fantastici. Che però, con Claudio Villa, Claudio Villa. Che però, insomma, vabbè. No, ma Benigni io ringrazio, ma insomma, ecco, non tocchiamo le cose sacre, io ringrazio. Come ci ha fatto le palle con un globo terrestre. Meraviglioso. Maestro, non si tocca. No, ecco. Sei pronta a cantare? Pronta, pronta. Puoi cantare se vuoi. Posso cantare quando canti il Re Ultimo? Vabbè, è vero, è vero. Torna a Sorrento. È meglio che io non canti. Te ne andrai a Sorrento con l'eco delle parole del nostro ascoltatore, l'invito a dire, sostituire. Dovresti farmi una sigletta a questo punto. Magari è la prima volta che ci incontriamo, una bella sigletta. Per una sostituire bella Benigni che ci fa le palle come un globo terrestre. Va bene, caro Luca, non ti riporta un po' queste note, non ti riportano un po' la settimana scorsa? Sì, nostalgia delle mentre vacanze. Noi eravamo al caldo, noi eravamo a seguire il senato da mani a sera, sabato e domenica. Una cosa sulla segreteria telefonica, come no, certo. C'è quello che giustamente ha detto, ma scusa, ma Renzi va in Angola a parlare dei sassi sui binari, ma la colpa non è sua, la colpa è dei giornalisti. Io non ho mai capito perché un giornalista segue il Premier in Angola per fargli domande sul Senato. Succede a Roma. Sul Senato, cosa ne pensa del Senato in Angola? Del Senato. È una persecuzione effettivamente. In Angola diranno, ma di che cosa stanno parlando. Esatto, pensa, si alza quello dell'ANSA. Che ne pensa dell'opposizione di Mineo in Angola? Cioè, pensa come... vabbè. Quindi avrebbero argomenti su cui parlare in Angola d'altro, abbastanza. Per esserci state. Abbastanza. Vabbè, insomma, voglio dedicarvi questa che dedicano spesso a me, a Paola. Che te pozzino via fuoco, ciao mio. Questa è per Paola Saluzzi e Luca Digni, grazie. Che me possino pia fuoco. Invece io posso ringraziare per questo anno favoloso con due ragazzi favolosi come voi. Quali sono i ragazzi? Ah, noi, ecco. Alessandro Milano e Luca Digni. No, non vedevo ragazzi, scusa, sai che quindi vabbè. E allora però vi voglio chiedere questo. Io oggi parlerò di questa cosa della fecondazione eterologa alle 8:15 e vorrei capire un po' che ne pensate, se questa vicenda della fecondazione eterologa è una vicenda, come dire, da paese medievale, per cui la legge la vieta, peraltro poi le sentenze, abbiamo detto tante volte, la prevedono di fatto, per cui adesso qualcuno si è attivato per fare la fecondazione eterologa anche in Italia. Paola, tu che pensi? Bisognerebbe aprire, bisogna essere... Allora, ieri la ministro Lorenzin a Sky Pomeriggio, sì. Si deve lavorare, lei diceva, non presto per fare le cose fatte male, ma bene, sicuramente di buon passo, come le ho detto poi, la invitavo poi a lavorare di buon passo per costruire una legge che renda questa pratica fattibile in tutto il nostro paese in maniera estremamente controllata e basta, e non ci ferma più nessuno, perché a questo punto si fa. Però ci deve essere una regola, perché se inizia ognuno come gli pare a fare, a portare avanti questa fecondazione, la vedo grigia. Cioè, no, se soprattutto inizia la non regola su un tema del genere, Alessandro. No, certo, soprattutto cosa iniziano? Le sentenze, poi, no? Cioè, se non ci sono le regole, intervengono i tribunali. Sentite tra l'altro proprio il ministro Lorenzin ieri da Paola Saluzzi come combatteva. Immaginatevi quello che è accaduto al Pertini di Roma e moltiplicatelo per 1000 se noi non abbiamo un sistema di sicurezza che ci permetta di garantire le coppie. Al Pertini, ricordiamo, no? C'è stato addirittura lo scambio degli embrioni, ma perché? Ci sono due gemelli che nascono, sì, oggi hanno quattro genitori. Sì, certo, questo è vero, ne abbiamo parlato, questo è un vero dramma. Però mettere, non so, Luca Digni, ovviamente la Lorenzin è contraria, insomma, è una cattolica, la fecondazione eterologa, o comunque ci vogliono delle regole precise. Che ne pensi? Parlare anche di questi rischi di, come dire, che sono successi al Pertini? Secondo me è scorretto, perché quello è un errore. Il problema è che la legge non c'è perché non si è voluta fare, o meglio, ce n'era una che erano proprio. Le sentenze purtroppo sono state necessarie per mettere in evidenza che la legge era sbagliata, ma infatti la facciano, nel senso se che la cambino, perché sennò ogni volta si sveglia un tribunale, decide dove uno fa legittimamente ricorso. La facciano all'inglese, ecco, poi faccio Benigni, no, facciano delle però cose. Purtroppo sono stati necessari i tribunali per costringere finalmente, come succederà, il Parlamento ad assumersi la responsabilità di riscrivere una legge che, ripeto, era sbagliata. Quella sì era medievale. Sì, responsabilità che non si assumono perché non le fanno. Intanto strappavo una pagina del giornale, ma tutto è tutto tranquillo. Non è che non era rabbia la mia. Se sentiva... Ci fu anche un referendum che venne scientemente boicottato anche da chi oggi dice bisogna rifare la legge. È vero. Dove erano. Tra l'altro, io nel concludere qui il numero di Vanity Fair, vedo a proposito di donne, non c'entra niente con la fecondazione, ma l'associazione ci sta. Beh, questo è interessante, l'ho vista anche, l'hanno ripresa credo sul Corriere della Sera. Voi fate l'anteprima mondiale del calendario Pirelli, un gran classico. Cos'è la novità quest'anno, caro Luca Digni? Che c'è una modella di udite quanti chili? 90, credo. 90. Sì. 90 chili. Che, ben distribuiti, perché è molto alta. È una modella, quella che adesso usa chiamare curvy, semplicemente sono persone normali con taglie strong, normali, perché esistono anche quelle. Beh, un po' strong, sì, insomma, 90 kg. Però insomma, una bellissima donna. che non porta alla 38. Ecco. Hai visto, cara Saluzzi, la scelta posso della dire, Pirelli? Meno male, meno male. Oh. Brava Pirelli e bravo Vani che ne parla. E meno male, era allora, come si dice, sì. Era ora. Era ora, vabbè, infatti, no, ma io tra l'altro qua ci sono le foto, effettivamente è proprio una modella, una bellissima ragazza, 90 kg, com'è che si chiama? Boh, non lo so. Candice Huffin. Eccola qua, Candice Huffin, è vero, l'ho beccata anch'io, e intervistate anche la Madia, ma guarda ancora Peppa Pig, questa domanda ti prego, gliela avete fatta? No, Peppa Pig, il ministro Marianna Madia, ma oh, non sapremo mai se guarda ancora Peppa Pig, chi lo sa. La guardi, mi sembra di capire. Io sì, la sterminerei, no, nel senso... No, fortunatamente i miei figli sono nell'età in cui iniziano a dire che Peppa Pig è un cartone per piccoli e hanno 8 e 5 anni, quindi fate un po' i conti voi. Comunque io qua mi devo fermare e vi devo salutare, per tutto, che sia un saluto per tutta l'estate. Allora Saluzzi, non vieni in vacanza con me, proprio non... Allora, faccio un ultimo assalto alla dirigenza. E con una ragazza che si chiama Francesca verrei molto volentieri in vacanza. Ah, cioè tu verresti in vacanza con me perché c'è mia moglie. Cioè. Vogliamo parlarne? Capisci Luca che sono senza speranza, proprio una roba terribile. Io però invece su Twitter per direct message dietro per compenso posso rivelare dove va in vacanza Alessandro Milan. dietro compenso addirittura. Ma modesto, ma proprio un mercenario clamoroso. E a tutti gli estremi proprio. Clamoroso. Si vede. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio. Buone vacanze, Lucadini, splendid. Grazie. Buone vacanze. Anche a voi, non a te Luca che sei stato, e non ai senatori a lavorare dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì. Ciao a tutti. Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:19 minuti. Forza, forza, cari ascoltatori, amici miei debosciati d'Italia, che vi attardate nelle vostre lunghissime colazioni. Dai! Forza, dai! Se siete già in giro a produrre, invece, bravi, bravi. Allora, oggi alle 7:20 ora sfoglieremo i giornali, poi parleremo di che cosa? Parleremo della fecondazione eterologa, delle varie polemiche, lecita o non lecita. Avremo il nostro amico con le sue posizioni molto nette, Mario Adinolfi, molte delle quali non condivido. Nel suo libro Voglio la mamma, contro queste idee come la fecondazione eterologa, si confronterà con l'avvocato Filomena Gallo, che si occupa invece dell'associazione Luca Coscioni e che sta seguendo alcune delle mamme che hanno fatto la fecondazione eterologa, vietata per legge ma garantita da alcune sentenze. E poi parleremo del meteo. Siete pronti alle vacanze? Ci sono degli albergatori pronti a denunciare il meteo, le previsioni meteo. Ne parleremo alle 9. Sono giuste? Sono sbagliate? Sono troppo azzardate in alcuni casi? Gli albergatori di Rimini dice portiamo i meteorologi in tribunale perché dicono che piove e poi magari non piove e ci fanno perdere un sacco di soldi. Ne parleremo dalle 9. Ora andiamo a sfogliare i giornali. È mercoledì 23 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla crisi del mondo dell'edilizia, edilizia ai livelli del 1967, crollano gli investimenti, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere sempre il Medio Oriente in primo piano, razzi su Tel Aviv, sospesi i voli. Invece la politica italiana per Repubblica, Renzi, il Parlamento faccia le riforme o andiamo al voto. La Stampa, riforme, la spinta di Napolitano. Il Messaggero, Renzi, riforme subito o si vota. Questo è il titolo di prima pagina. Per Libero, Renzi nella palude minaccia

Nessun centro può effettuare l'eterologa in Italia se non ha avuto un'autorizzazione delle regioni. Non mi risulta al momento che ci siano gravidanze, quando non ho avuto nessuna notizia formale di questo fatto, di bambini nati con l'eterologa. E quindi questo il ministro Lorenzin. Saluto l'avvocato Filomena Gallo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno avvocato, ci sente? No, è caduta la linea, adesso la recuperiamo. Saluto intanto Mario Dinolfi, buongiorno Mario, ben ritrovato. Buongiorno. Autore di questo libro Voglio la mamma, che sta facendo molto discutere, molto anche arrabbiare, molto dibattere sulle posizioni che tu hai sui temi cosiddetti etici, uno dei quali è proprio la legge 40. Al grido di la legge 40 non si tocca, dici tu. Intanto abbiamo recuperato l'avvocato Filomena Gallo, buongiorno avvocato. Eccoci. Buongiorno. Vogliamo intanto chiarire, avvocato, questa questione sulla gravidanza. Lei ha ribadito anche ieri che questa gravidanza c'è, è una questione molto importante perché il ministro Lorenzin dice non mi risulta. Allora, esiste questa gravidanza con fecondazione eterologa in Italia, sì o no? Ma in realtà io ho conosciuto una coppia che ha avuto una gravidanza più altre due che me lo hanno comunicato. Le gravidanze ci sono. Poi c'è da dire che la legge 40 con le linee guida prevedono che ci sia una comunicazione annuale che i centri fanno al registro nazionale sulla fecondazione. E l'hanno avuta in Italia, mi perdono, che l'hanno avuta in Italia, ovviamente. Questo l'hanno avuto in Italia, quindi la comunicazione al registro nazionale sulla fecondazione assistita viene annualmente, non quotidianamente. Ah, quindi verrà alla fine dell'anno questa comunicazione? Sì. Quindi probabilmente il ministro avrà un quadro sulle gravidanze ottenute in Italia con le varie tecniche solo a seguito di queste comunicazioni. Non mi risulta che sia cambiata la norma, per cui bisogna comunicare subito, c'è una comunicazione quotidiana. E sarebbero tre, sono tre, diciamo, quelle che, di cui lei ha conosciuto. Attualmente sono tre. So che si sono rivolte a una struttura romana. E altre notizie verranno poi diffuse quando le coppie vorranno, come chiaro. Tutte le coppie in attesa di una gravidanza. Beh, vorranno, in questo non c'è differenza, aspetteranno di aver superato il terzo mese per essere fuori da ogni pericolo fisiologico di perdita. Allora, ecco, io ho iniziato citando questo suo intervento ieri sull'Unità e la domanda la voglio girare brutalmente a Mario Dinolfi. Mario chiede appunto l'avvocato Gallo ieri sull'Unità, quando una coppia comunica di aspettare un bambino, che reazione vi aspettereste? Perché non tutti sono pronti a gioire per loro. Come è questi casi? Tu sei pronto a gioire per queste coppie che stanno aspettando un bambino, una bambina? Ogni nascita è una bella notizia, non è una questione del gioire o non gioire, è decidere se la vita può essere oggetto di compravendita. Perché quello che stiamo vivendo in queste ore proprio, sapete cos'è? Non è nient'altro che il tentativo di alcuni di farsi il volantino pubblicitario attorno alle vicende legate alla fecondazione eterologa. Ci sono i tre, ma ci sono anche i sette annunciati ieri, no? Da un altro soggetto interessato, diciamo così, a farsi notare. Perché? Perché questo è un business. Noi possiamo accettare che attorno alla questione più sacra che c'è, e uso sacra in termini laici, vada bene, cioè la nascita dell'essere umano, ci possa essere una compravendita con tanto di strumentalizzazione a fine pubblicitario della vicenda che riguarda per esempio la fecondazione eterologa. E sai come si dona un uovo, per esempio, un ovulo umano? Pensi che è come la gallina, funziona così? No, non funziona così, sai, una donna si deve sottoporre a cicli di bombardamento ormonale, poi c'è il prelievo degli ovuli attraverso aguaspirazione, con sedazione profonda. Secondo te tutto questo viene fatto così, per donazione, che si vuole bene a qualcuno? O secondo te questo diventa cioè, secondo te Severino Antinori quanto si fa pagare per un no, per carità, che Severino Antinori qua non c'è, poi dopo sai che è uno dalla querela facile, veditela. Vabbè, veditela. No, ma è chiaro, questa domanda. È chiaro che ci sarà un business tutto dietro. Questo è una, è accettabile? Sì, però dal punto... No, no, ma è chiaro, questa si pagano, si pagano? Questa è la domanda che tu poni, e tu poni anche nel libro che girerei subito a Filomena Gallo come considerazione. Quanto business c'è in tutto questo? Certo, poi siamo già usciti dal punto di vista, della prospettiva della coppia, che in realtà sta vivendo un momento, immagino, di gioia, di soddisfazione, un traguardo che avevano inseguito, agognato per anni e che ora forse stanno realizzando. Comunque, avvocato Gallo, quanto c'è di business dietro a tutto ciò, chiede Mara Dinolfi, e siamo disposti ad accettare un business dietro a una cosa così sacra come la nascita di una persona? Ma nessun business, ricordiamo che le donazioni in Italia sono anonime e gratuite, e in linea con le direttive comunitarie che abbiamo recepito non è previsto alcun pagamento dei donatori, ma solamente un rimborso spese. E io ho ribadito anche nel dare la notizia che sia il medico della struttura romana non ha voluto in nessun modo, nessuna forma di comunicazione esterna, perché non voleva speculare su una notizia che invece doveva essere di routine, è ritornata all'eterologa nel nostro paese, non è più un reato applicare le tecniche con gameti di donatori, e quindi i medici devono solo riprendere a lavorare osservando le leggi in vigore. E sia della coppia, che in realtà delle coppie, delle tre coppie, che in realtà hanno voluto condividere una bellissima notizia con le altre coppie che per 10 anni... Cioè dice, non c'è niente, nessuno che ci ha guadagnato. Dice, nessuno che ci ha guadagnato. In questo caso poi sul dottor Anzilorio non lo so, non lo conosco, non so che cosa abbia fatto, quindi atteniamoci a quello. Però mi scusi, avvocato Gallo, anche quando c'era in vigore la legge 40, che è ancora in vigore, anche se giudicata in parte incostituzionale, si raccontavano anche in reportage giornalistici dei cosiddetti viaggi all'estero, proprio perché in Italia non era possibile la fecondazione eterologa. Viaggi che immagino 40... siano legati anche a, inevitabilmente, a dei costi, a un business, no? La legge 40, essendo una legge proibizionista, ha creato in realtà situazioni di ricerca di queste, dell'accesso di queste tecniche all'estero, e non sempre le coppie hanno avuto anche esperienze positive. Quindi dobbiamo dire che ciò che la legge 40 voleva evitare in Italia probabilmente l'ha determinato in altri paesi. E dovremmo avere una legge sulla fecondazione medicalmente assistita che dovrebbe avere degli altri presupposti: intanto garantire i diritti delle coppie, proprio come dicono i giudici della Corte Costituzionale, quindi rispettare i diritti in linea con la Carta Costituzionale, però, e dall'altro lato garantire equità nell'accesso alle cure ed evitare qualsiasi forma di speculazione. Su questo, la legge 40 non lo fa. La legge 40 non lo fa, però Mario Dinolfi, tu scrivi nel tuo libro, la legge 40 è stata votata dal Parlamento, è stata sottoposta a referendum, ma che vuol dire? Perché tu concludi a dire quindi non si tocca. Perché non si potrebbe toccare? Perché non si potrebbe modificare? Io per decenni mi sono sentito dire che la legge 194, per dirne un'altra, non si tocca perché è stata votata dal Parlamento e sottoposta a ratifica referendaria con esito favorevole alla legge 194. Io voglio capire perché questo slogan che ho sentito per decenni, la 194 non si tocca, non si può applicare con lo stesso criterio e con una valanga, diciamo così, di consenso sorprendente per molti nel referendum che provava ad abrogarlo, che provava ad abrogare la legge 40 qualche anno fa, non si possa avere per analogia lo stesso tipo di atteggiamento. Io credo che quella legge sia stata democraticamente approvata e dal popolo italiano difesa. Una sentenza della Corte Costituzionale sì, è andata proprio così. Una sentenza della Corte Costituzionale, per vostra sorpresa, è andata così. Una sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta contro le decisioni del Parlamento e contro la volontà del popolo italiano. Per carità, poi le norme vanno rispettate, però le norme vanno rispettate. E non ci raccontate la barzelletta dei rimborsi, perché nessuno, e dico nessuno, si sottopone a quei cicli ormonali e a quella condizione per un rimborso. Questa è banale e mera compravendita di gameti, fino alla compravendita di esseri umani, perché se passa questo tipo di criterio, ovviamente il passaggio successivo sarà l'utero in affitto, perché per esempio i gay non hanno la possibilità di fare questo tipo di percorso e devono ricorrere all'affitto di qualche utero. Allora tutto questo, secondo me, o lo fermiamo sul bagnasciuga o avrà quella produce, che secondo te è una deriva. Ma lei sta dicendo delle cose che no, sentiamo la trasformazione delle persone in cose. Sentiamo Filomena Gallo, va bene, no, ma è chiaro, Mario, ti sei spiegato, avvocato, le persone erano cose. Sì, avvocato Gallo, cosa c'è di incredibile, dice Adinolfi, quella che è fermare quella che per lui è una deriva dal punto di vista etico dell'applicare nuove pratiche e altre ulteriori pratiche che a lui non piacciono? Allora, lui intanto parte da un presupposto facendo un paragone tra la legge 194 sull'aborto e la legge 40 che riguarda invece la possibilità di far nascere tanti bambini. La 194 è contenuto costituzionalmente vincolato e lo dice la Corte Costituzionale. La legge 40 è stata sottoposta sì al referendum, ma quel referendum non ha raggiunto il quorum. E il 25% degli italiani che andarono a esprimere un parere dissero no alla legge 40. Funziona così però avvocato, funziona così, però avvocato, purtroppo non ha raggiunto il quorum, quindi non significa che non è stata confermata, significa che non si è avuto una validità nella votazione. Poi la legge 40 è stata sottoposta per circa 30 volte alla verifica dei tribunali, per due volte la Corte Costituzionale ne ha cancellato dei divieti e la stessa Corte Costituzionale, ricordiamolo al deputato Adinolfi, i giudici della Corte Costituzionale sono i giudici delle leggi, quei giudici per due volte hanno cancellato dei divieti e hanno detto che i divieti contenuti nella legge 40 non hanno fondamento costituzionale, sì, violano le garanzie delle persone. Ora, i pericoli che lui paventa, certo, possono esserci, ma ci possono essere in tutte le tipologie di interventi dei medici, ci può essere la compravendita degli organi, ci possono essere situazioni di legalità. Lei non vede un nesso, non vede un primo passo verso questo tipo di diritto. Sì, evitiamo di fare dei nessi che invece fanno pensare a scenari fantascientifici. Evitiamo questo. Donne che accedono alla donazione di gameti e gli uomini che accedono alla donazione di gameti più delle volte utilizzano gameti di coppie che sono in trattamento e che donano i loro gameti in eccesso gratuitamente in forma anonima per altre coppie. Allora poi, facciamo se così, vuole no, prevedere una normativa specifica vabbè, sulla donazione si fa, di gameti, no, però si fermi un attimo perché devo andare in pubblicità. Io su alcune cose sono perplesso. Effettivamente credere che non ci sia dietro un business è una cosa, purtroppo lo dico in maniera molto laica, la persona che non crede molto all'etica, alla morale delle persone, credere che non ci sia dietro un business, faccio fatica questo a capirlo, perché tutto purtroppo è finalizzato a questo, però mi rimane come dubbio, come rimane però la domanda di fondo, la prima domanda dalla quale voglio ripartire dopo la pubblicità è: ma questa coppia che a detta dalle testimonianze non poteva avere un figlio se non con la fecondazione eterologa e che adesso attende con una felicità estrema questa gravidanza, atteso e accolto con felicità estrema questa gravidanza, che male fa? Voglio dire, come dicevi tu Mario, ogni nascita deve essere accolta in maniera positiva. Allora, che male fa questa coppia che è felice di attendere un bambino? 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:36 minuti, stiamo discutendo di fecondazione eterologa con l'avvocato Filomena Gallo, con Mario Adinolfi. Sentirei Roberta da Monza ci chiama. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, io volevo rispondere al dottor Adinolfi dicendo di non tirare in ballo il fatto che è comunque un business, perché di business in Italia ce ne sono tanti, tra cui anche l'adozione. È soltanto un desiderio di diventare mamme, genitori, che in Italia ci è stato negato. Io dico che negare comunque la libertà di fare quel si vuole in un paese democratico è veramente una cosa uscita. Perché lei dice ci è stato negato, Roberta? Perché comunque, obiettivamente, io ho fatto l'eterologa e ho dovuto andare all'estero a farlo. Dove, se posso sapere? In Spagna. In Spagna. Sono diventata mamma di due bellissime gemelle, sono orgogliosissima di questo. Ho dovuto andare a dare tantissimi soldi alla Spagna, ancora prima in Svizzera, perché poi dove poi è andata male dopo sei volte. Ho regalato un sacco di soldi all'estero, quando comunque avrei preferito magari pagare gli stessi soldi ma in Italia, in un paese dove la democrazia, perché non ricordiamoci che siamo un paese democratico, dovrebbe dare la libertà alle persone di fare quello che vogliono. Stia con noi Roberta, poi scusi. Poi ognuno se la vedrà con la propria coscienza quello che fa, se è giusto o sbagliato. Va bene, stia con noi che Mario Di Nolfi le risponde, così potete anche parlare. Mario, che dice Roberta? Ma il problema è in quella espressione, tanti soldi. Io sono contento che Roberta sia mamma, e questo non mi turba. Però quel tanti soldi mi turba, perché allora la favola delle donazioni è scomparsa. Insomma, improvvisamente si capisce che intorno a questa cosa non c'è la donazione, c'è un enorme business. Dal mio punto di vista, dal punto di vista di uno che considera laicamente che le persone non sono cose e dunque i figli non si acquistano, fermo restando e sono felice che ci siano la vita di queste gemelle, non è che la cosa mi turba, ma dal punto di vista strutturale, se devo costruire le norme del nostro vivere civile, non posso immaginare un vivere civile dove le persone sono cose e i bambini si acquistano. Però Mario, non sono conflittuale, no, certo, ma non sono un po' conflittuale queste tue due idee, cioè dire sono felicissimo che Roberta abbia figli, come però posso dire, mi come dire, ti, che ti dà fastidio Alessandro, no, dire, ma no, ma no, questo, però poi dal punto di vista civile io devo pensare a che norme voglio, ma voglio dire Roberta ha speso tanti soldi per inseguire un desiderio, un sogno, è una cosa anche legittima. Dal mio punto di vista i desideri non sono sempre diritti, io non credo che esistano desideri che sono sempre diritti. I figli di Roberta sono figli di una fecondazione eterologa, il padre chi è? Questi figli hanno diritto a conoscere il padre, per esempio? Padre biologico? Secondo te esiste un problema legato al DNA, alle malattie che questo DNA trasmette, alla caratteristica dell'impronta biologica? La questione dell'errore clamoroso che c'è stato al Pertini ci pone proprio questa questione in maniera molto plastica la e anche biologia, drammatica. La realtà non la puoi trasformare, dipingere a tuo piacimento. La realtà è la realtà. Queste cose non si cancellano e non si comprano, allora, non ci sono soldi che tengano. Roberta, qualcosa da ribattere? Poi Sì, forse una nozione che manca è che nel momento in cui ci sono gravi malattie, comunque i genitori vengono conosciuti e questo è un diritto che viene dato ai bambini. Nel momento in cui ci sono gravi malattie bisogna conoscere per forza a tutti i costi i genitori vengono conosciuti. Perché comunque questo bisogna sapere. E che ne sanno che ci sono le gravi malattie? Quando lo sanno? Questo magari ha donato a 20 anni, la malattia si manifesta a 40. Ragazzi, è un territorio delicato. No, ma poi scusate. No, che sia delicato, su questo non c'è dubbio. Non dica, si gioca, non si fa Frankenstein. Che sia... No, vabbè, ma adesso Frankenstein, che sia delicatissimo non c'è dubbio. Roberta, dica per concludere. Allora, in Italia è ammesso l'adozione, ma l'adozione quanto costa? Voglio dire, però questo apre un altro fronte, però lì c'è un business anche quello. Ma uguale, se il dottor Adinolfi parla di business, perché non parla anche di adozioni? Del business delle adozioni, va bene. Roberta, però questo è un altro fronte. Avvocato Gallo, prima di andare ad altri ascoltatori, vuole replicare su questo. Ecco, le faccio questa domanda, avvocato. Secondo lei, che è un tema interessante, un figlio è un diritto? Avere un figlio? È un diritto provare ad averlo. È un diritto provare ad averlo. E quindi ricorrere anche, secondo lei, anche a pratiche, per esempio, come l'utero in affitto, che sono pratiche magari più estreme rispetto alla fecondazione eterologa. Ovviamente l'utero in affitto vuol dire che la gravidanza la porta avanti una donna e poi il figlio viene consegnato a un'altra donna. Beh, questa pratica ancora non è vietata in Italia, ma ci sono paesi dove è consentita, le coppie provano anche in alcuni casi a rivolgersi a pratiche del genere. Mi dica che ne pensa lei, cioè se secondo lei è una pratica che dovrebbe essere legittima anche in Italia. Io penso che dovrebbe essere legittima e consentita per dei casi specifici. Ricorrere a un utero in affitto non è un capriccio, a volte ci sono donne che nascono senza l'utero e quindi non hanno il contenitore per portare avanti una gravidanza. Noi abbiamo visto che in Italia, tra l'altro, è stato consentito a seguito di decisioni di alcuni tribunali. Ricordo che proprio a Roma nel 2002 fu consentito un utero in prestito, quindi senza retribuzione economica, per una coppia che aveva problemi del genere. Mario, insomma, però prima di affrontare questo tema sentiamo Anna da Milano, però è interessante, dice, il tema è se una donna nasce senza l'utero, ha diritto comunque a cercare tutti i modi per avere un figlio. Sentiamo prima Anna da Milano. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Io sarò una futura mamma, porto in grembo un bimbo, sono al quarto mese, grazie alla fecondazione eterologa. Non ho potuto esimermi dal collegarmi e portare la mia testimonianza principalmente per andare a sfatare alcune dichiarazioni di Adinolfi che sono assolutamente infondate e non veritiere. Fatta all'estero, immagino, la sua gravidanza. Sì, fatta all'estero. Prima di sottopormi a questa pratica ho provato in Italia quattro volte ad essere assistita e quindi comunque mi sono sottoposta a delle stimolazioni ormonali che non sono assolutamente così come Adinolfi le ha raccontate. E non sono invasive, non implicano una sedazione profonda come ha asserito precedentemente Adinolfi, sono delle scelte. Penso che nessuno più di una donna che abbia fatto questo percorso può capire e raccontare che cosa significhi desiderare un figlio e non riuscire sì. ad averlo. Quindi prego. No, lei dice quindi è il desiderio profondo, Mario, sul quale non si può molto addentrarsi, però vuoi rispondere ad Anna e anche alla questione che diceva l'avvocato Gallo, cioè perché no anche l'utero in affitto, se una donna che non ha l'utero, nasce senza utero, non le si vuole dare la possibilità di avere un figlio? Non utilizziamo i cavalli di Troia dei casi estremi, perché l'utero in affitto non viene utilizzato prevalentemente da donne che non hanno l'utero, sono casi eccezionalissimi questi. L'utero in affitto viene utilizzato prevalentemente come forma estrema, diciamo così, di fecondazione eterologa e dalle coppie omosessuali, e così viene utilizzato nel mondo, a fronte di pagamenti molto ingenti con agenzie specializzate che chiedono tra i 150 e i 200 mila euro per generare bambini in giro per il mondo, molto spesso in paesi in via di sviluppo, perché si sfrutta la donna per costruire, perché c'è una donna che dona l'uovo, e mi dispiace signora, la donazione di un ovulo non avviene come una gallina che fa l'uovo, avviene con un percorso di bombardamento ormonale e la agoaspirazione di un ovulo è sempre sotto sedazione, profondo o meno. Il dato oggettivo è che questa pratica è una pratica che ha al suo centro il business intorno all'essere umano e che trasforma la persona in una cosa e il figlio in qualcosa che si compra. Non c'è un caso di fecondazione eterologa che possa dire io non ho tirato fuori un euro per avere mio figlio, non c'è un caso, sono tutti casi in cui sono partite decine di migliaia di euro. A mio avviso la costruzione intorno all'essere umano di un elemento di business e intorno a parti di essere, non è che non mi piace, è pericolosa, se tu puoi affittarti l'utero, ma noi quando ci dicono quello si è venduto un rene, che reazione abbiamo? Però anche tu anche tu da un passo, quello sulla fecondazione eterologa, lo consideri il primo passo verso ulteriori pratiche sempre più estreme. Non è detto che sia così per forza, Mario, cioè chi l'ha detto, cioè che da un passo si va al passo successivo, è la storia di tutte le normative, Alessandro, dove si è cominciato approvando la fecondazione eterologa, si è arrivati, guarda tutti i dibattiti giurisprudenziali in giro per il mondo, progressivamente attorno alla questione, ad esempio, dell'utero in affitto, quando va bene, perché poi ci sono pratiche estreme che mettono i brividi. Ora, se noi accettiamo che intorno alla vita umana, all'essere umano, possa esserci il giro di denaro a questi livelli, che è un giro di tanti denari, sì, noi ci esponiamo a un pericolo enorme per le nostre vite. Allora, Andrea dalla provincia di Piacenza. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ma io premetto che rispetto profondamente le donne che hanno parlato prima, ma le donne in generale che dicono io non posso avere un figlio e voi non potete capire il desiderio. Per carità, io ho un figlio bellissimo, è la cosa più bella del mondo. E anche non voglio entrare nella questione religiosa, laica, dell'etica, ma secondo me, invece che fare tutte queste discussioni, adottare un bambino fa anche del bene. Io desideravo profondamente giocare nel Milan, però non ci ho giocato, capisco che sia una cosa completamente diversa, ma ci sono cose che semplicemente la natura consente, altrimenti andiamo vicinissimi a Mary Shelley con Frankenstein. Per me diventa una forzatura abominevole. Grazie Andrea. Avvocato Gallo, dobbiamo concludere, che ne pensa, insomma, come queste gravidanze sono anche un po' sbandierate, scusi se lo dico francamente, per cercare di fare appunto un fronte comune contro la legge 40, per cercare anche attraverso testimonianze umane di cambiare una legislazione che c'è? Ma di fatto questa legislazione ormai è stata cambiata, sono rimasti pochi divieti che saranno all'esame della Corte Costituzionale entro dicembre, e tra l'altro su questi procedimenti l'Avvocatura di Stato non si è costituita, quindi c'è una scelta del governo di non difendere questi divieti della legge 40 e dare insomma corso a ciò che decideranno i giudici della Corte Costituzionale. Mi dispiace che ci sia stato un dibattito che abbia in questa mattinata che abbia messo in mezzo situazioni estreme. Certo, è vero, negli altri paesi molte cose sono consentite e molte cose determinano probabilmente a volte un business. In Italia si cerca di evitare che possano accadere anche situazioni di incentivo delle situazioni di illegalità che ci possono essere all'estero. Però ripetiamo che le coppie che si rivolgono ad altri paesi lo fanno in paesi dove ci sono delle norme precise, dove si rivolgono nella piena legalità a tecniche che erano vietate in Italia. Oggi non lo sono più. Avvocato, io sono invece contento di aver fatto questo dibattito, perché è bello comunque mettere a confronto idee anche se vuole estreme, estremamente diverse, opposte, insomma, è il bello della democrazia. Comunque io ringrazio lei, avvocato Filomena Gallo, grazie a Maria Di Nolfi. Se volete Voglio la mamma, leggetelo, ovviamente c'è tema poi per dibattere di varie altre cose, temi molto molto importanti che poi a settembre, al di là della riforma del Senato, cari Di Nolfi, su cui tu batti molto, la riforma della legge elettorale, poi in realtà ci si concentrerà magari una volta anche su questi temi, i cosiddetti temi etici, che sono molto molto importanti. Dopo il traffico con noi sarà il sindaco di Castel Volturno, che è già nostro qui ai microfoni in provincia di Caserta. Buongiorno sindaco Dimitri Russo, da lei tra 30 secondi. 24 mattina. Siamo qui allora alle 8:51 minuti con il sindaco di Castel Volturno, Dimitri Russo. Eccoci qua, sindaco eletto nelle ultime elezioni, quindi in carica da quando? Un paio di mesi? Anche di meno. Anche 14 di meno. Giugno. 14 sono stato giugno. Proclamato eletto. Senta, sindaco, lì a Castel Volturno leggiamo dalle cronache che c'è una situazione di tensione continua, perenne, non nuova ovviamente. Ricordiamo anche la strage che c'è stata in passato tra cittadini di Castel Volturno e molti migranti. Quanti sono? Quali nazionalità sono maggiormente rappresentate lì? Allora, iscritti all'anagrafe, diciamo, dei regolari ne sono 4.000. Sì. Diciamo quelli irregolari, ovviamente una stima oltre i 10.000, le nazionalità rappresentanti di più sono il Ghana e la Nigeria, più nigeriani che ghanesi. Ecco, ieri il Fatto Quotidiano ha fatto un titolo di questo tipo, l'avrà vista anche lei, frase shock del sindaco di Castel Volturno, e cioè la frase suonava più o meno così: quando c'era, fin tanto che c'era la camorra che teneva la situazione sotto controllo, non succedevano queste tensioni. Suonava quasi come un, voglio dire, cioè lei tra l'altro l'ha detta questa frase, esattamente ci faccia qualche frase. Io l'ho detta e la spiego pure il significato, nel senso che qui ovviamente è uno dei tanti territori in cui la camorra ha dominato, e quando dominava la camorra, uso il passato perché oggi effettivamente diciamo è stata debellata, almeno diciamo la parte quella più consistente, è rimasto qualche manovale ancora residuale di quel fenomeno. Quando dominava la camorra, alcune zone come la zona dove è scoppiata diciamo la rissa, dove è successo quell'episodio, lì l'equilibrio lo tenevo ovviamente con la paura, con la prevaricazione, con le tangenti, con quindi un clima di paura lo teneva la camorra, perché era impensabile che gli extracomunitari potessero entrare nelle case, rubare, quello che sta succedendo oggi, perché lì è una zona dove veramente, ma quasi tutti i territori di Castelletto, noi siamo quasi alla fame, la fame proprio nel vero senso della parola. Che però quindi... non suona come una frase a dire di rimpianto di quei tempi, no? Assolutamente. No, non penso che qualcuno, a meno chi mi conosce, comunque dalle battaglie che ho fatto, non può mai pensare una cosa del genere. È un modo, l'ho detto anche davanti al ministro, al sottosegretario, cioè il mettere in evidenza che l'assenza dello Stato in quelle zone praticamente rimarcava come l'antistato fosse riuscito a mantenere quell'equilibrio. Una volta che l'antistato, la camorra, non c'è più, ecco che è scoppiato l'intolleranza, è scoppiata una sorta, come dire, anche di lotta sul territorio tra bianchi e neri, perché parliamo che quell'episodio, come quello del 2008, sono episodi non di intolleranza di natura razziale, sono episodi legati anche alla conquista di un territorio. Ce li parliamo di vigilantes, quindi guardie giurate che avevano il controllo del territorio anche di attività economiche come la vendita di bombole di gas, la guardieneria, la vigilanza sulle ville, e gli extracomunitari che avevano interesse ad entrare nelle ville e rubare. Quindi non è un fenomeno di intolleranza, è chiaro che dopo un fenomeno del genere, con questa pressione sociale, con questi numeri, è ovvio che come dire, qualche spinta di intolleranza, di razzismo latente può venire fuori. Senta un po', ma lei dice adesso a Castel Volturno la camorra non c'è più? Io posso assicurarle che se fosse stata la camorra a Castel Volturno non sarei sindaco di Castel Volturno. La camorra non c'è più a Castel Volturno, come quella cappa di terrore, quella cappa di tangenti che avevamo qualche anno fa. Ovviamente ci sta qualcuno che anche in questa fase, come sembra la camorra nigeriana, diciamo la mafia nigeriana, cerca di conquistare il potere attraverso il mercato della prostituzione, della droga. Sì. C'è qualche capozona, perché il territorio è molto lungo, parliamo di 30 km di litorale, cerca di, come dire, anche cavalcando questa intolleranza, cavalcando qualche manifestazione del genere, di accreditarsi in qualche gruppo e magari diventare il boss del giorno dopo. Sì, certo, battaglie per il territorio, lei dice. Ma senta, ma lo Stato che fa? Lo Stato è presente o non è? Allora, assolutamente no, lo Stato non è presente veramente nel minimo sindacale. Io per minimo sindacale intendo il controllo del territorio. Quello che Castel Volturno oggi avvesto, vabbè, no, sempre avvestito, è l'assenza del territorio, ma proprio e dello Stato. Quindi, ma perché non ci sono i carabinieri, non sono abbastanza, non c'è la polizia di Stato? No, ne sono pochissime. Lei pensa che come vigili urbani, quindi quando parla di controllo del territorio, controllo non solo dell'ordine pubblico, ma anche per esempio il controllo del territorio, come che ne so, controllo dell'aspetto ambientale, immagini che siamo nella terra dei fuochi. Io ho 14 vigili urbani, divido i turni in due, quindi ho 7 vigili su un territorio di 72 km quadrati. Quindi immagino come posso controllare io il territorio. Com'è possibile, per esempio, fare la differenziata che siamo, che ne so, al 9-10% in un comune dove non esistono vigili, guardie ambientali? Ho capito, ma la differenziata è una questione culturale, cioè si deve fare perché si deve fare, non perché c'è uno che ti controlla, che vuoi. No, senza sistema di sanzionatori in questi territori è impossibile. È quello il problema. Si parte anche da un sistema sanzionatorio, è un controllo del territorio. Chiunque, questa volta è talmente ampio, anche i comuni limitrofi, qualche impresa deve buttare dei rifiuti speciali, viene a Castel Volturno perché è troppo facile accedere a questo comune, ovviamente senza controllo. Ed è questo il motivo perché gli extracomunitari in numero così cospicuo vengono a Castel Volturno, perché sanno che pur essendo irregolari, qui a Castel Volturno possono muoversi in maniera, come dire, autonoma, liberi, senza controllo. Sono anche tanti, immagino facciano numero. Io la ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Dimitri Russo, voglio ricordare, il sindaco di Castel Volturno in provincia di Caserta. Noi ci fermiamo per il giornale radio, ma dopo rientriamo per parlare delle vostre vacanze, del tempo, nel senso di meteo, proprio il tempo meteorologico che vi aspettate. Lo so che siete tutti lì pronti a dire: mannaggia, andiamo a fare il weekend, andiamo, ma guardate, piove. Ma poi pioverà davvero? gli albergatori sono infuriati con coloro che fanno le previsioni meteorologiche, magari non con tutti di costoro, e decidono, li portiamo in tribunale, perché fanno le previsioni sballate. 800 24 00 24 se volete intervenire sul meteo e le vacanze. 24 mattino. Sono le 9 e 8 minuti e venne il giorno in cui gli albergatori si arrabbiarono. Potremmo titolare così questa parte di trasmissione fino alle 9.30. Si arrabbiarono contro chi? Contro il meteo, o meglio, contro chi fa le previsioni meteo. Ci sono persone che non si spostano di casa se non guardano le previsioni del meteo. Parliamoci chiaramente, che prima di uscire di casa devono andare sui siti, ascoltare, vedere, informarsi. Ci sono persone che sono pronte anche, che ne so, a disdire un weekend perché hanno prenotato ma vedono previsione pioggia e quindi disdicono, chiamano, addirittura fanno saltare le vacanze. E certo, ma se poi invece di quella pioggia c'è un gran bel sole? E alla fine, se c'è questo, gli albergatori si arrabbiano, tanto che sono pronti ora a portare in tribunale coloro che sbagliano le previsioni meteo. Patrizia Rinaldis, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, ma davvero volete portare in tribunale? Non è una minaccia, cioè è una cosa concreta. Volete portare in tribunale? Mi faccia capire chi e con quale ipotesi di reato. Allora, intanto non è una minaccia come le minacce che vediamo di brutto tempo col sole. Noi convocheremo i siti commerciali, chiaramente quelli più diffusi, davanti all'organismo della mediazione a Roma, e non sono gli albergatori che sono arrabbiati, ma è l'economia del territorio, tanto che con noi abbiamo anche i bagnini, i parchi tematici, quindi delle azioni fatte insieme. Cioè, chiaro, tutti coloro che vivono sull'indotto. Sull'indotto, perché abbiamo anche quantificato, non dimentichiamocelo, che previsioni fatte così in anticipo, perché il problema non è la previsione oggi per oggi, sì, o per domani, ma è la previsione fatta con 10-15 giorni. Perché ricordiamo che le previsioni oltre i 2-3 giorni sono previsioni di un'attendibilità molto scarsa, ecco. Zero. Assolutamente. E quindi voi avete quantificato che cosa? Abbiamo quantificato che i danni, difficili chiaramente, per un weekend sono quantificabili intorno ai 10 milioni, considerando la nostra località. Lei lo moltiplichi per l'Italia, che credo che stia vivendo, ho visto anche i comunicati del nostro presidente nazionale, la stessa identica situazione, provi a pensare quanto può essere la perdita economica per l'Italia, non solo per... E quindi chiederete proprio i soldi a... No, il nostro problema non è quello di chiedere i soldi, ma proprio perché le convocheremo davanti alla mediazione di trovare delle soluzioni per queste, una regolamentazione. È chiaro che siamo pronti anche a fare l'azione civilistica. Al momento partiamo con quella che comunque è un istituto riconosciuto della mediazione, ma soprattutto quello che si chiede è che venga regolamentato anche dal punto di vista normativo a livello nazionale, perché c'è completamente assenza di regole. Questo è uno dei problemi che credo richiedano anche gli operatori del settore. Ne voglio salutare due, così vede Rinaldi, se le abbiamo messo due responsabili del meteo si sente già un po' accerchiata. Saluto Antonio Sanò, che è direttore del meteo.it, uno dei siti più richiesti, più gettonati e anche più accusati. Scusati, Sanò, buongiorno. Buongiorno, il meteo. Il meteo.it, certo, buongiorno, sì, l'ho detto forse male. Saluto anche Luigi Latini, che è produttore esecutivo di Epson Meteo, che cura anche le previsioni per Radio 24. Buongiorno Latini e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, Sanò, lei è sotto accusa, eh? Lo sa. Scusi, è sotto accusa perché è uno dei siti accusati di fare, come dire, previsioni più forti. Io ho visto anche la vostra home page più terroristiche a volte, no? Bombe d'acqua, eccetera. Chi risponde? Si sono verificate purtroppo anche ieri a Roma, l'altro giorno ci sono stati molti disagi, anche ci sono stati dei danni, ci sono stati... L'Italia è un paese caratterizzato da problemi a carattere idrogeologico diffuso, sì. E la cronaca ne parla molto più di noi di questi problemi. Sì, certo, vabbè, questi ecco, sono. Però sì. mi dica come risponde alle accuse di sì. chi dice allora, siamo pronti a portarvi davanti sì. addirittura allora, a fare un'azione civile. Certo, al di là di queste cose, allora il nostro obiettivo è quello di fornire delle previsioni il più possibile affidabili e precise, perché noi cerchiamo di offrire un servizio più affidabile per i nostri utenti, altrimenti noi perdiamo utenti. Cioè, a sbagliare noi non ci prendiamo niente, anzi ci perdiamo molto. Cioè, perdiamo ci perdete utenti, incredibilità. Prendiamo incredibilità, perdiamo utenti. Purtroppo le previsioni hanno un margine di errore e in particolare il weekend del 14 di giugno, che è quello più incriminato, sì. è oggetto di studio scientifico dalla comunità internazionale. In che senso? In che senso? Perché queste previsioni che noi vediamo in realtà sono frutto di una elaborazione a carattere internazionale, non nostra, personale. Le previsioni non si fanno a sentimento, non lo fa il meteorologo. Il meteorologo si basa su dati, su risultati dei modelli matematici globali, mondiali. Sì, sì. Il tempo fa o farà Rimini oggi o domani o fra qualche giorno, dipende da quello che sta accadendo magari oggi sull'Oceano Atlantico. Ho capito, certo, ma quello che uno si chiede se deve andare certo. a Rimini è che cosa fa. Quello che voglio dire è che ci sono dei casi in cui le previsioni sono fallaci, cioè presentano degli errori. Quello del 14 giugno è stato un errore importante e il Centro Europeo di Reading, col quale noi collaboriamo e da cui riceviamo i dati e che indicava per il 14 giugno, un sabato, importanti precipitazioni, poi queste precipitazioni non ci sono state. Ma è proprio questo il punto. Sì, il punto sì. Cioè, questo è un problema scientifico. No, vabbè, ma è chiaro, ma Sanò, mi scusi, è un problema scientifico, però uno che deve fare? Siccome non siamo scienziati, io non sono meteorologo, se io voglio capire che tempo fa, mi affido a delle persone che meteorologi lo saranno, per cercare di capire che come funziona. Però vorrei capire, anche da Luigi Latini, mi sembra di capire che uno dei punti che anche Rinaldi smette in evidenza è la mancanza di una legislazione che non aiuta a fare chiarezza anche. Quanti sono le persone che adesso fanno meteorologia in Italia, Latini? Allora, le persone sono centinaia, migliaia, nessuno lo sa, è proprio questo il problema. Noi siamo dalla parte della Federalberghi e siamo dalla parte di chi si lamenta, perché noi siamo i primi a lamentarci di questa situazione, perché è inammissibile ascoltare quello che ha appena detto il Sanò. Non si può accettare una cosa simile. Il primo punto è semplice, ci vuole una legge. Chi sta parlando di meteorologia adesso è un meteorologo, ha una struttura meteorologica, è vero che collabora con alcune istituzioni internazionali ed è vero che sa guidare una macchina così potente come dei modelli fisico-matematici che danno delle indicazioni, ma il pilota è bravo, nel senso sa interpretare dove c'è l'errore? Evidentemente in alcuni casi no. Perché? Perché magari non è meteorologo o non ha una struttura meteorologica. Quello che noi diciamo è che la Federalberghi ha ragione e noi chiediamo a gran voce una legislazione, la creazione di un albo, di una selezione, di esami, di qualsiasi cosa si voglia concordare insieme, ma ci vuole regolamentazione. Se in questo momento chi ci sta ascoltando decidesse di aprire un sito internet dedicato alla meteorologia, lo potrebbe fare già questa sera e domani potrebbe dire che in una località nevicherà per tutto il mese di agosto e nessuno gli potrebbe dire nulla. Quindi questa è una cosa folle. Questo è abbastanza incredibile. Cioè, insomma, è incredibile. Cioè, io adesso chiudo la trasmissione, decido di fare il meteorologo, apro un sito di meteorologia e dico che nevicherà a Milano e nessuno mi può fare niente. Nessuno le può dire nulla, questa è una cosa assurda, quindi noi siamo d'accordo, non vediamo l'ora che qualcuno faccia qualcosa di concreto, anzi voglio dare un messaggio alla dottoressa Rinaldi, nei prossimi giorni, parlo delle prossime 24 ore, è un'operazione concreta che la riguarda molto da vicino e verrà informata non solo lei, anche voi di Radio 24 e tutta la mappa nazionale, perché siamo stufi di lamentarci e a livello nazionale fare operazione proprio per risolvere questo tipo di problema. Non posso anticipare nulla, ma il centro terzo medio non vuole più lamentarsi, vuole fare qualcosa di concreto con un'istituzione. Insomma, mi sembra, mi sembra che non ci può dire nulla, mi incuriosisce a questo punto. È una collaborazione scientifica volta a risolvere proprio questo problema, perché è assurdo trovare siti nei quali c'è scritto che le previsioni a 15 giorni hanno una fiabilità del 50%. Se voi andate nei siti principali che conoscete, che tutti conoscono, andate a cercare nelle previsioni a lungo termine, in uno di questi siti troverete le previsioni per i prossimi 15 giorni affidabilità 50, 60, a volte addirittura 40%. Cioè vuol dire che per una monetina è più affidabile che guardare quel sito. È una cosa inconcepibile. Beh, insomma, mi sembra di capire, Patrizia Rinaldis, che ci sia anche, ecco, tra Epson Meteo e ilmeteo.it, che sono i due rappresentati qui, già una divisione di idee. Insomma, Luigi Latini del centro Epson Meteo dice: avete completamente ragione, insomma, ci vuole una regolamentazione del settore, perché altrimenti magari le persone che si ritengono più serie vengono screditate dalle persone che si ritengono meno serie. Voi, Rinaldi, avete identificato chi vi dà più problemi da questo punto di vista? Allora, intanto concordo con Latini, che poi ci eravamo già sentiti. Il problema è che ci sono oltre 300 siti e sono siti commerciali. Ogni click corrisponde comunque a un accesso e a visibilità, quindi hanno una mission che è completamente diversa da quella di fornire previsioni, nel senso che loro acquistano o prendono dall'America o da qualsiasi altro fornitore questi algoritmi, poi dovrebbero giustamente, come ha detto, elaborarli. Sì. Come vengono elaborati non si sa, ripeto, sono siti commerciali, non ce lo dimentichiamo. Quindi non è possibile, come dice Epson o come dice giustamente anche l'Aeronautica Militare, oltre i due giorni non hanno assolutamente affidabilità. Ecco, quindi le azioni che stiamo portando avanti, io credo che dovremo a questo punto riunirci proprio, più ci facciamo sentire, più le azioni sono importanti, perché quello a livello normativo di trovare una regola è assolutamente necessario, al di là di portarli in tribunale, cosa che comunque noi perché faremo, stiamo già facendo. Sì. Ecco, quindi questo è importantissimo dirlo. Mi fa piacere che si stiano attivando, credo che potremo assolutamente collaborare a livello nazionale, perché non si può più scherzare su questo, bisogna essere più seri. No, ma è chiaro, è una questione economica molto seria, se le perdite sono quantificate con le cifre che ci ha detto lei. Assolutamente, ma un'altra cosa, l'anno scorso che ci eravamo già attivati, la risposta che è stata da alcuni siti, tra l'altro non voglio entrare in polemica con loro, mi è stato risposto: voi siete purtroppo in una situazione particolare, avete il mare e le montagne, per cui le previsioni non si possono fare. Allora, se non si possono fare, qui viene dimostrata la negligenza, perché non tieni conto di una situazione morfologica che poi è italiana, e me lo potrà confermare anche Epson, che è la più complessa a livello mondiale. Quindi, fatemi sentire, sì, un ascoltatore, poi voglio tornare da Sanò, che è stato anche un pochino accusato, anche senza un pochino, da Luigi Latini del centro Epson Meteo. Bruno da Roma, buongiorno Bruno. Sì, buongiorno, volevo esprimere un'opinione diversa dalla vostra, nel senso che io non percepisco che si vogliano fissare delle regole per dei criteri, degli albi per stabilire chi può fare previsioni meteorologiche e chi no. Io non vedo perché bisogna fissare delle regole. Ma come, perché no? Perché no, la meteorologia è una scienza, non è che ma la scienza è anche matematica. No, non l'ho sentita più, c'è il cellulare che fa le bizze. Che sta dicendo la scienza? Dicevo, ci sono tante scienze. Quello che volevo dire è che si tratta di previsioni del tempo, si tratta di aprire l'ombrello o no. Io credo che il mercato sia libero di decidere. Ho capito, ma Bruno, ma non è aprire l'ombrello o no, ma è una scienza, cioè non è una scienza, cioè capisce, non è aprire l'ombrello o no. Se c'è uno che dice non andate assolutamente perché pioverà nei prossimi 10 giorni a Jesolo, E uno magari ha prenotato la vacanza e dice: oh, ma sapete che c'è? Io disdico. E poi se a Jesolo c'è invece bel tempo, chi è che ripaga tutti gli albergatori, gli stabilimenti, le pizzerie, i ristoranti, l'indotto? Cioè, non è una cosa. Si maneggia invece un materiale molto delicato. Comunque lei dice invece è questione di aprire o chiudere l'ombrello. Antonio Sanò, risponda un po' alle accuse e anche a dire: è materiale delicato quello che maneggiate, quello che maneggia anche lei? Sì, sì o no? Allora. Sì, allora volevo fare alcune riflessioni. Innanzitutto noi da 14 anni che lavoriamo nella ricerca scientifica e abbiamo un centro di calcolo e un gruppo di esperti, di scienziati internazionali che lavora su questo. I risultati delle nostre previsioni, pur con questi errori di cui stiamo parlando, sono evidenti, tanto che milioni di persone ci hanno scelto e continuano a sceglierci proprio per la qualità del nostro servizio, altrimenti avremmo perso tutti gli utenti. Invece noi conquistiamo la fiducia degli utenti grazie all'affidabilità delle nostre previsioni, che sono un dato di fatto. Ci sono anche degli studi statistici, possiamo parlarne, c'è un margine di errore, ma pensiamo di avere delle previsioni probabilmente però, le migliori che mi scusi, vabbè, fare. Ognuno poi qua dice che lui è il migliore, ma dire che le previsioni del tempo sono utili anche a più giorni di scadenza. Perché ci sono e questo è il punto, questo è il punto che le volevo fare. Lei ha fatto un'intervista ieri al Giorno a dire, per esempio, per l'estate tenete gli ombrelli a portata di mano, questo allora, è il consiglio, ma che ne sa lei cosa succede tra 15 giorni? No, ma io lo dico sempre, quando mi chiedono come sarà l'estate, le previsioni, non esistono previsioni, ci sono delle linee di tendenza di alcuni centri internazionali e noi ci limitiamo a riportare queste linee di tendenza precisando che sono oggetto ancora di studi scientifici. Certo. Le previsioni affidabili sono entro i 3-5 giorni e talvolta anche 7 giorni. Questo lo ripetiamo sempre ed è ovvio ormai. Quello che voglio dire è che in tanti casi le previsioni a 5 giorni o a 7 giorni potevano essere, e non sono state ascoltate, potevano essere di grande importanza per salvare vite umane. Come il caso dell'alluvione del 2011 a Genova. Latini, insomma, qua la questione è insomma di affidabilità o meno delle previsioni. Ha sentito l'ascoltatore prima dire, ma insomma si tratta di capire se aprire o no l'ombrello. Questo è quello che è stato creato da siti come quelli del signor Sanò, cioè questa mancanza di cultura totale. Abbiamo sentito il signor Sanò dire una serie di cose retoriche e un ascoltatore rappresentare cosa ha creato la mancanza di regole. Cioè, si pensa che la meteorologia sia come tirare una monetina, basta andare in giro con l'ombrello, tanto prima o poi lo aprirai, le previsioni possono essere affidabili fino a 15 giorni. Non è vero. Lei ha giustamente detto che la meteorologia è una scienza, ed è una scienza. Ci vuole gente laureata, preparata. Il signor Sanò ha detto che fanno ricerche e via dicendo. Benissimo. Lo diranno anche gli altri 300 che ha citato la dottoressa Rinaldi. Benissimo. Chiediamo che qualcuno a livello nazionale vada a controllare tutti questi siti. Non con l'albo, però tante critiche sono arrivate a dire un altro albo. Dicendo l'albo nel senso l'ordine, l'albo nel senso un elenco di nomi di persone certificate, punto. Non voglio parlare di albi nel senso di caste o di qualcosa, no, un albo, un elenco, un quaderno, un block notes, come lo volete chiamare, cioè tu andare a vedere se Andrea Giuliacci, Flavio Galbiati, Daniele Izzo, Simona Belli, cioè sono persone che sono state certificate da un ente nazionale, super partes, logicamente che abbia delle verifiche, ci vuole una certa laurea, ci vuole una certa esperienza, ci vuole un certo tirocinio, ci vogliono determinate macchine, ci vogliono, attenzione bene a quello che sto dicendo, determinate persone assunte regolarmente, perché sappiamo di molte aziende che fanno meteorologia, che hanno collaboratori, che vengono pagati, non pagati, quindi c'è tutto un mondo. Ma una serietà professionale. Una serietà che poi porta gravissimi danni alle associazioni di albergatori e tutto al settore del turismo. Questo è inaccettabile in Italia, in un momento di crisi grave noi vogliamo delle regole certe per dare un servizio affidabile. Quando, e qui ci vuole il meteorologo esperto, sa che si può parlare solo di 2 o 3 giorni, parla solo di 2 o 3 giorni, quando può spingersi più avanti si spinge più avanti, e questa è la differenza. C'è chi dice ma le affidabilità è solo di 3-5 giorni, ma parla lo stesso di 15, questo è inaccettabile. E sentiamo Franco da Roma, buongiorno Franco. Buongiorno, no, io mi riallaccio al discorso dell'ascoltatore precedente e credo che il mio intervento sia, in qualche modo sia superato, ma io voglio dire che sono totalmente d'accordo con lui. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in Italia è un altro albo e un'altra lista. No, ma l'albo, adesso lasciamo stare l'albo, Luigi. Ho sentito parlare di certificatori, proprio, ma chi certifica che cosa? Io sono liberissimo di aprirmi un blog e di fare previsioni. Ma sentito questo, se dico che domani a Milano nevica, avrò detto una cretinata e nessuno verrà più a visitarmi, questo è il concetto. Ah, quindi lei dice, allora salvo, guardi, no Franco, io salvo quest'ultima parte del suo discorso, perché sennò sembra dire che uno può maneggiare la meteorologia come se fosse l'oroscopo. Ecco, non è la stessa cosa. Io dico, io non credo agli oroscopi, mi fanno incazzare anche gli oroscopi, e quindi dico, per me maneggiatelo uno, faccia l'oroscopo che vuole, perché non c'è niente di scientifico in quello. Così mi attirerò una serie di critiche, ma chi se ne frega. Ma la meteorologia invece è una scienza, dice. Però salvo il discorso che faceva anche Sanò a dire, ma è quello che noi presentiamo come biglietto da visita. Se la gente ci segue così tanto, evidentemente ci ritiene seri, se invece ci ritiene poco seri non ci segue più. Comunque sentiamo anche Massimo da Bergamo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, no, io vi portare la mia esperienza, in quanto io sono un utilizzatore frequentissimo, perché vado in montagna, vado in moto, programmo viaggi e quindi giustamente, sono abbastanza sistematico nell'osservazione, e il mio comportamento è il fatto che io ho scelto un paio di siti che nell'esperienza mi hanno confermato una sensibilità, e ben conscio del fatto, perché mi sembra che lo dicano tutte le parti, che la meteorologia è sì una scienza, ma è una scienza che presenta un certo grado di ponderabilità. Vabbè, infatti si parla di previsioni del tempo, quindi, non di certezza. Io quando scelgo e metto nel conto che 2, 3, 4 volte all'anno il meteo mi dice di non andare o mi dice di andare, io prendo l'acqua o non prendo l'acqua, ma lo metto nel conto, lo so, perché la meteorologia nessuno dice mai che è una scienza esatta. Non riesco a capire questo concetto. Poi effettivamente sulla base dell'osservazione faccio una scelta, dico mi assumo una certa dose di rischio sulla base della mia osservazione concreta nel corso di questi anni, e il sistema attuale mi dà la possibilità. Però io ecco una cosa, alcuni siti non li frequento ed altre più sì, di questa affidabilità. La ringrazio Massimo, più c'è da dire. Lontano e più so che questa attendibilità presenta dei rischi. Ma la ringrazio. Allora, c'è da dire che effettivamente, però, sulla adesso poi non chiamatelo come un albo, come forse Luigi Latini, la questione dell'albo è quella che è rimasta impressa. No, chiamata una regolamentazione, però effettivamente ci sono gli ascoltatori che dicono no. Molti dicono, ma se un attendibile lo si capisce, se no no. Lo sapete perché? Pronto? No, sì, eccoci. Lo sapete perché c'è questo atteggiamento? Perché la meteorologia è stata trattata così male, così bistrattata negli ultimi anni, da indurre le persone a non capire che è una scienza. E nessuno accetta di andare da un dentista o da un avvocato che non si sia laureato o che non abbia fatto il tirocinio corretto. Invece la meteorologia deve essere equiparata ad una scienza, perché lo è in tutto il mondo tranne in Italia, dove c'è questa giungla, e quindi la gente dice, ma perché devo avere delle regole che sono nel loro interesse, nella loro tutela? No, ma infatti spiegatevi la parola albo. Anche perché se le regole vengono percepite come un qualcosa per creare dei privilegi, no, ma le regole, se vengono stabilite per, invece da dettare delle cose che sono a tutela di tutti, questo assolutamente sì. Comunque io mi devo fermare qui, e ringrazio Patrizia Rinaldis, ricordo presidente dell'associazione albergatori di Rimini, così come Luigi Latini, produttore esecutivo di Epson Meteo, e Antonio Sanò, direttore di ilmeteo.it. Ci fermiamo domani alle 6:30, siamo qui puntuali con Giorgio De Luca, con Alessandro Marco Tulli, con Elisabetta Fusconi, con in regia Carmelo Lauricella, e domani è... stavo dicendo è l'ultimo giorno. Domani è giovedì, mannaggia, fino a venerdì, poi in vacanza. Va bene, a domani, 6:30.